avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux. Per quanti hanno criticato e denigrato questa fantastica sigla che accennava al tourbillon de la vie, che è un momento fantastico in cui tutti prima o poi finiamo, molti se ne sottraggono, molti naturalmente fanno finta di non averlo visto, molti ricordano con nostalgia l'unico, i pochi o i fantastici tantissimi tourbillon della propria vita e quindi si sentono immedesimati. Beh, dicevo, tutti voi che invece l'avete denigrata, rallegratevi, la sentirete ancora per pochi giorni perché questa è l'ultima settimana di Melog. Quest'ultima settimana però dovrà avere un senso, daremo il senso, come abbiamo sempre dato, ma lo daremo un senso aggiuntivo a ognuna di queste puntate. In ognuna di queste puntate cercheremo di cogliere un profondo passaggio che sia vicino all'avventura esistenziale di quelli che ci ascoltano. E quindi, siccome ho intuito che la parte più vivace, più reattiva, più collaborativa e più veemente del mio pubblico è composto da signore, signore in senso lussureggiante della qualità femminile, ma probabilmente possono essere anche zitelle, signorine, plurisposate, divorziate, dico signore. Questa mattina vorrei dedicare la puntata, e conto molto sul vostro contributo, quindi avendo ancora 5 giorni per poterne usufruire, sulla inadeguatezza dell'uomo che avete accanto. Ho tra le mani un libro che sintetizza in una parola che forse sembrerà un po' dura e un po' greve, ma è molto espressiva, ormai fa parte di ogni lessico familiare, quello che è il punto di osservazione di una moglie, di una compagna, di una donna che ha un uomo accanto e sa che lo avrà accanto probabilmente per tutta la sua vita. Perché? Perché è un po' rassegnata, poi perché probabilmente gli vuol bene, si è presa questo cucciolone, lo ha estirpato dalle mani di un'altra donna, se lo tiene ben stretto sotto, cerca di blindarlo e proteggerlo da tutte le ingerenze del mondo così cattivo, così spietato, così crudele, così poco attento alla delicatezza di quest'uomo. Il libro che ho in mano è scritto da Marica Facci, edizioni Aliberti, e parla delle cazzate che dice mio marito. Mio marito sta un'ora sotto la doccia e fa tanta schiuma e consuma tanta acqua e soprattutto tanto shampoo. Ma non il suo shampoo, il mio. Ora, mi spiegate perché un uomo con i capelli scuri, lisci eppure un po' radi dovrebbe usare uno shampoo anticrespo per capelli ricci? E alla fine, ancora peggio, perché mai dovrebbe utilizzare la mia maschera per capelli colorati? Quale colore deve ravvivare? Quando finalmente esce dal bagno ha pure il coraggio di dirmi «Lo shampoo è finito!» 800240024, da questo rapido e fuggevole assaggio molte diranno «Ma cosa volete che sia? Un marito che sbaglia shampoo?» Ci sono mariti che picchiano, che bastonano, che incatenano, che uccidono, che massacrano, che fanno la vita impossibile, che trasformano ogni giorno di vita coniugale in un inferno fatto di rinfacciamenti, fatto di piccoli giochi mentali, fatto di torture psicologiche, fatto di omissioni, fatto di sovraccarichi. Cosa volete che sia un uomo che sbaglia lo shampoo? Beh, questa mattina invece vorremmo fermarci alle piccolezze, quelle trascurabili, quelle su cui si può passare sopra una volta, due volte, tre volte, ma che alla fine scanno delle voragini incolmabili nella vita coniugale. A scrivere questo libro è Marica Facci. Marica Facci ha 40 anni, è segretaria di direzione di un'azienda di prodotti meccanici, ha due bambini di 4-5 anni, da 15 anni ha un marito che ha descritto attentamente in ogni suo comportamento quotidiano come un antropologo guarda una tribù di esseri sconosciuti e primitivi, e dopo essersi arrabbiata tante volte per le cazzate che faceva appunto suo marito, ha deciso di tenere il diario. Il diario è appunto il risultato che ho qui tra le mani. Marica Facci, buongiorno. Buongiorno. Devo dirlo per onestà, perché sennò tradirei il mio mestiere. Marica Facci non è il tuo vero nome, perché giustamente per salvaguardare la dignità del tuo lavoro e della tua famiglia hai usato uno pseudonimo. Però è vero che tu sei subissata quotidianamente da piccole difformità rispetto a ciò che ti aspetteresti da tuo marito, e hai pensato attraverso un diario di poterle elaborare, ma hai pensato di liberarti di quest'uomo? Sì, il libro infatti è nato proprio in un certo senso per salvare il mio matrimonio, nel senso che dopo una decina d'anni di convivenza, tutta una serie di comportamenti quotidiani hanno cominciato a generare in me un'insofferenza che consideravo pericolosa, per cui ho pensato meglio sfogare questa rabbia, questo sentimento a volte anche di schifo che potevo provare in un detto schifo sì. Per il tuo uomo col quale hai generato dei figli a volte può e accadere. Con cui dividi la tua vita, sì, può accadere, ecco, che magari ma l'aspetto schifoso a tavola di insieme tu non l'avevi colto nel momento del preludio, del fidanzamento, della conoscenza? No, perché nella fase dell'innamoramento, comunque nella prima fase di avvicinamento tra due persone, probabilmente si accantonano tutta una serie di esigenze, anche di desiderio, comunque si vedono le cose in modo trasfigurato. Molto idealizzato, molto trasfigurato. Sì. Ecco, ti risulta che questa condizione sia condivisa da molte donne? Noi abbiamo trattato casi umani di tutti i tipi, recentemente abbiamo avuto ospite con nostro grande diletto una professoressa di greco latino che a un certo punto della sua carriera ha gettato il dizionario alle ortiche e si è messa a fare la prostituta, quindi ci sono anche cambiamenti radicali. A te si rivolgeranno chiamando all'800240024 le nostre ascoltatrici portando episodi meno drammatici, cambi di vita meno radicali, ma cominciamo a osservare quali sono gli ambiti in cui si denota la schifezza quotidiana. Questo libro è titolato Le cazzate di mio marito. Io ero portato a pensare che si parlasse di fantasie, di scuse, di escamotage per eludere quelli che sono i necessari e doverosi debiti coniugali, ma in realtà no, si tratta di piccole, stupide, fanciullesche cose di cui si potrebbe fare molto a meno. Quali sono i luoghi in cui si estrinseca questa sua capacità di essere cazzata? Allora, io ho deciso di dividere tutti questi episodi che caratterizzano la mia quotidianità in stanze, perché in ogni stanza della casa il marito si esprime in qualche comportamento che può diventare insopportabile alla lunga per la moglie. Infatti una delle cose fondamentali è proprio che è la ripetizione infinita, per cui qualsiasi tentativo di educare il nostro compagno educare mi sembra si rivela... la parola giusta, perché sì. Si tratta di comportamenti che di solito uno li apprende ai tempi della scuola elementare. Sì, fammi degli esempio... esempi, definiamo per zone ciò che si consuma in camera da letto, così partiamo subito alla zona più critica. Nella camera da letto il principale motivo di scontro sono i calzini, che vengono abbandonati, sembra una gag, ai piedi del letto ogni sera e rimangono lì per sempre se non interviene la moglie a trasportarli nella cesta. Cioè l'uomo non è capace, quando si toglie il calzino, di andarlo a mettere nell'apposito cestone della biancheria da mettere in lavatrice. No, non è capace. Aspetta che camminino da soli, si incamminino. Esatto. Ma quello accade, dopo qualche mese accade. Daniele, primo ascoltatore, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono un marito anch'io, da 19 anni. Contento per lei. E io i calzini li metto tranquillamente in bagno, sulla spalliera del letto, sia io che mia moglie abbiamo un ambaradan di roba. No, li metti i calzini sulla spalliera del letto? Questa... È un vostro gioco che fate in... No, di no, coppia. Soltanto che se la roba la mettiamo lì, i calzini vanno in bagno per benino e poi la mattina ognuno si mette a posto la roba o si riveste, insomma... Quindi lei è il marito ideale, ci ha chiamato per darci questo schiaffo. No, non sono il marito ideale, sono una persona che qualche volta... Sa qual è la cosa peggiore che può fare una moglie o un marito? Potrei fare un elenco che dura fino a domani. No, no, velocissimo. È chiedere al marito cosa vuole per cena e fare la scelta. Ma questo è vero. Il marito deve indovinare al 50%. Ha quella possibilità. Se sbaglia, lei gli dice, ma no, ma non sarebbe meglio quest'altro. Guardi, allora nella sua voce rotta da lira capisco il dramma. È vero, cosa vuoi per cena? Con quell'aria stanca, come per dire... E allora sa che cosa fa uno? Me lo faccio da solo. In quel caso vede la moglie come una donna e dice, ma fai quello che cazzo ti pare. E vorrei dire alla signora, ma perché non lo lascia stare questo marito? Anzi, che si porti via anche i figlioli, perché se devono essere come lei sono veramente... Sì, ma non sia così veemente, sennò sembra che nasconde qualcosa. No, ma cazzo invece su questa cosa, scusi, eh. No, sia tranquillo, perché innanzitutto, guarda, già basta il titolo del libro, già l'ha detto 3 volte, abbiamo capito. Però non c'è motivo, ripeto, di fronte a chi la mattina carica di miscela una motosega e taglia a pezzi la moglie, mi sembrano cose veniali. Assolutamente, uno la moglie la prende, la mette fuori casa e dice ciao, arrivederci, oppure va via lui, insomma, sì, ma stiamo parlando di calzini, sono cose che fanno sorridere. No, Nicoletti, per favore, non la faccia così. Il calzino è un eufemismo, è un feticcio, è un, come posso chiamarlo, un esempio, ma poi... C'è da scavare. Faccio una domanda allora alla nostra autrice. Perché vediamo. Non va via? Perché non si toglie? Date, io le rispondo da parte mia. Non va via mio marito, semmai? Stiamo parlando delle sue mancanze. Ha ragione in questo senso. Io a questo punto se è andato via. Sì, ma scusatemi, calmatevi un attimo. Sono motivi sufficienti per mettere in crisi un rapporto il calzino? Ma io non so quanti episodi questa signora parla, ma francamente io quando mi faccio la doccia prendo uno shampoo e se c'è su 3 shampoo ce n'è 2 per i capelli ricci e uno normale, io ne figlio uno, anzi se qualche volta quello shampoo mi lava anche addosso. Allora, riprendiamo il punto con l'ascoltore Francesco che si era lievemente adirato. Vi cito un'ascoltatrice che ci ha mandato un SMS e mette una poesia tratta da una canzone, penso, ti ho visto addentare un panino dentro un autogrill, dice, a volte un dettaglio può uccidere una poesia. Qual è il motivo, la maggior colpa che Marika Facci imputa al marito Cazzaro? Quello di uccidere la poesia giorno per giorno, che potrebbe esserci in un rapporto d'amore, ma sono questi i sintomi della poesia che va scemando? Sì, un po' questo e un po' a volte una colpevole pigrizia. Per esempio nel libro ricorre spesso la domanda dov'è qualcosa, ed è questa domanda tutte le donne se la sentono fare decine di volte al giorno, perché a quanto pare gli uomini non riescono a vedere bene da vicino, non distinguono gli oggetti o non si ricordano dove hanno messo le cose, per cui si appoggiano a questa memoria esterna che siamo noi, le compagne. Credo avere la memoria della casa. Sì. Io l'ascolto con grande attenzione e grande curiosità, perché come già sanno gli ascoltatori, più volte trattiamo questo argomento, io appartengo all'altra categoria degli umani, ai mariti umarelle, agli uomini di casa, quelli che sono totalmente autosufficienti, quindi a me vengono a chiedere dove stiano le cose, però questo noi rappresentiamo probabilmente un'eccezione. Parliamo di quella classe di esseri di sesso maschile che in realtà non riescono a essere all'altezza del loro ruolo nemmeno nelle piccole cose. Una donna non dovrebbe nemmeno accorgersi dei nostri calzini puzzolenti, o perlomeno dovrebbe idolatrarli come fossero un feticcio e quindi nemmeno porsi il problema del fatto che noi non li portiamo nel secchio della biancheria sporca. È sera, dopo cena. Io e mio marito possiamo buttarci sul divano e guardare la TV. Mi sdraio beata, ma dopo un secondo arriva la fatidica domanda. Dov'è il telecomando? Ecco. Sento l'angoscia di mio marito che aumenta. Prima tasta convulsamente il divano attorno a sé, poi comincia a girare la testa di qua e di là. Poi si alza di scatto, facendo cadere a terra il giornale che aveva sulle ginocchia e la sua copertina, nella quale non manca di inciampare. Prende contro il tavolino con uno stinco e lancia un'imprecazione. Si libera con una dura lotta dalle spire della copertina e poi comincia ad aggirarsi per il salotto con fare minaccioso. Mi sembra un licantropo, metà uomo e metà lupo, che fiuta l'aria alla ricerca della sua preda di plastica. Povera Marika Facci, quanta tenerezza mi fai, con un marito con una copertina di pile, probabilmente di quelle che danno in omaggio ai distributori di benzina, che proprio gira per quello. La casa, vero, è quella, sì, lo immaginavo, oppure quelle che vendono nelle bancarelle, leopardata magari, ecco, che gira in ciabatte per casa alla ricerca del telecomando, come cercasse la sua dose quotidiana per uscire dalla realtà. Ecco, ma in quel momento non c'è una calata totale del desiderio nei confronti di un uomo? Non è già questa una punizione, non sentirsi più desiderato? Non se ne rendono conto che in questa maniera non avranno vicino una moglie, ma tutto al più una badante? Sì, una madre, una badante. Non lo so, evidentemente non... non gliene importa più niente. L'istinto lupesco per la ricerca del telecomando cancella in quel momento ogni altra considerazione. L'istinto al lupesco. Francesco, buongiorno. Buongiorno, salve. Un altro uomo perfetto. Sì, no, sento... Ma no, stanno chiamando soltanto maschi. Ci fosse una donna che chiama per dire no, sì, però è vero. Io devo chiamare perché per raccontare una storia un po' diversa. Siamo nel qua. Senso che io ho una compagna che è una libera professionista, una veterinaria, e quindi non è mai a casa e i cazzetti di sicuro lei non li raccoglie. Soprattutto è tollerante con gli animali, quindi non ci farà caso al calzetto. Ha colto il punto, il problema è proprio quello. Dopo una giornata nelle stalle a far sgravare vacche, figuriamoci se si preoccupa del calzino accanto al letto. E quindi tocca a me, questo è il punto, voglio dire, sono vicino alla signora facile da sapere, però che appunto queste cose dipendono anche un po' dai ruoli che si assumono nella vita, ne avremo una bambina anche noi, e quindi chi ha il tempo di pulire, di fare, quando torna a casa fa, e posso capire che si arrabbi, ma... Diciamo, sì, fa parte un po' degli aspetti della vita. Dovrebbe esserci una solidarietà che non guarda in faccia i ruoli, ecco, in questo caso. Ma sì, guardi, poi nel mio caso è veramente assurdo, anche se devo dire che poi è capace di lamentarsi per qualcosa fuori posto, quando ad esempio per un odore cattivo, siccome faccio il giardiniere, del vestito, o quando ci sono i cani in casa che puzzano, diciamo che le donne... È un veterinario si lamenta per l'odore dei cani, mi sembra paradossale però, no? È incredibile. Sì, veramente incredibile. Secondo me c'è qualcosa dietro, lo dice, ma in realtà ce l'ha con qualcos'altro. Guardi, sarà una questione appunto, ripeto, di ruoli, di qualcuno che in casa deve fare questa parte. Io diciamo, a differenza della signora, se devo farlo, le cose le faccio e no. Però guardi Francesco, su una cosa sono d'accordo riguardo a quello che scrive Marca Facci. I campanelli di dissapore o di... rapporto che ha qualcosa da aggiustare sono proprio queste piccole cose, uno non è mai nelle grandi cose, non c'è mai nulla, anzi le tragedie che si attraversano insieme molte volte aiutano a stare più assieme. Uno comincia a detestare la persona che ha vicino proprio per questo, piccoli segni di trascuratezza, piccoli tic quotidiani e piccole ritualità che a noi alla fine non ci va di elaborare quotidianamente. Filippo, sentiamo Filippo. Pronto? Eccomi. Buongiorno. Buongiorno. 52 anni, mi sposerò a settembre con la donna con cui convivo da 22. E cos'è che vi ha fatto arrivare a questa conclusione? Dopo una felice... No, la motivazione è legata alla mancanza di tutela sua e di nostro figlio Francesco. Ah beh, se c'è un figlio, questo vi capisco perfettamente, sì. Sì, no, l'assurdo è che io faccio la libera professione e posso scaricare le spese mediche del mio cane e non quelle... Lo so, a fianco a me questa A questo punto cambia poco, dopo 22 anni è come se foste sposati. Ma poi ci piace l'idea, è divertente, anzi divertente. Esattamente. Però volevo intervenire su questa cosa, perché per esempio lei pensa io per farla nella sua situazione mi sono trovato anch'io, ma con una moglie di 8 mesi e mezzo siamo andati anche a fare il corso prematrimoniale in parrocchia per divertirci. No, è stato molto divertente, devo dire. Forse prendendolo sotto questo punto di vista, ma personalmente mi trovo su altri pianeti, diciamo. Vabbè, ma invece è una scelta estetica, che anche quello vale la pena. Vabbè, mi credo. Ci credo. Premessa, poi vorrei dire le cose. Non è che gli uomini sono sempre quelli che sbagliano e le donne, no. Assolutamente, chi ha mai pensato? Vorrei uno scrittore, io non faccio un altro mestiere, ma vorrei qualcuno che scrive le cazzate delle donne. Ma no, giusto? Guardi, di letteratura misogina ne sono pieni gli scaffali. Non è andro contro gli uomini, questa, non so quale sia il termine. Misantropa. Non so, non credo che sia misantropia. Misandria, diciamo, chiamiamola così. Volevo dire questo. Per esempio con la mia futura, io la chiamo già moglie, ho trovato un accordo di questo tipo. Lei si occupa della casa, abbiamo scelto che uno di noi due non lavorasse per farsi crescere il nostro figlio. Guarda che è un mestiere, anche ne parlavo questa mattina con l'ottimo Fabrizio Intonti, dice perché una volta c'avevamo meno rotture di palle delle famiglie, una volta le donne sceglievano che il loro mestiere era fare le mogli e facevano una sorta di cortina invalicabile rispetto ai pensieri del marito, il padre era intoccabile, poi c'era un muro, poi c'era la famiglia, i problemi, non dico fosse giusto o non giusto, ma l'uomo era molto più tranquillo e aveva più tempo per essere uomo al 100%, non si preoccupava dei propri calzini sporchi, ma aveva sulle spalle veramente delle responsabilità. Oggi le responsabilità non se le prendono più gli uomini sulle spalle, e la controparte è che anche i loro calzini diventino un problema di gestione. Ma lei si sente uomo al 100% perché mette a posto i calzini, scusi. Io uomo al 100%, io non mi sento mai uomo al 100%, se mettessi a posto i calzini. Ma se avessi anche qualche rottura di scatole in meno, forse userei la testa in maniera più proficua nel mio lavoro, questo è chiaro, ma vale per qualsiasi lavoro. Certo, certo. Ma io faccio tutto a casa mia, guardi, è risaputo che ne ho fatto più di una trasmissione. Non ho problemi, non è quello il problema. È che rispetto al ruolo della donna, come diceva lei ha fatto fare una scelta a sua moglie, che se proclamata diventa una scelta impopolare, direbbe, ma come, costringe la donna a stare a casa? Ma è un lavoro molto complesso e faticoso anche quello. Detto, ha fatto fare una scelta? No, io non ho fatto fare nessuna scelta, abbiamo fatto una scelta. L'abbiamo fatta insieme, tanto per cominciare. Lei è rimasta a casa per crescere il nostro figlio, che nel mondo di oggi è un po' diverso che 20 anni fa o 30 anni fa, è stata una scelta nostra, ne ha pagato le conseguenze, ma ne ho pagate anche io, minor reddito che entra, eccetera eccetera, e conseguenze varie. Tenga presente che se lei mette a posto i miei calzini, ed è vero che io li lascio in giro, però io risolvo a lei tutta una serie di incombenze. Mi dà ragione, quello che ho detto prima. È quello che ho detto prima. Non vuole assolutamente entrarci, allora voglio dire. Quello che ho detto prima, una volta l'uomo aveva su di sé un'infinità di responsabilità in più, totali, assolute e indivisibili, che il cambio nel mercato familiare era che la donna risolvesse tutti questi piccoli problemi banali. Però le dico, erano uomini che lasciati a se stessi non erano nemmeno capaci di farsi un uovo al tegamino o non sapevano nemmeno allacciarsi la cravatta. Questa era la controparte. Oggi noi siamo autonomi, potrebbero buttarci nella giungla e sopravviveremo benissimo. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Mio marito è davanti al frigo, sta per aprirlo e so già che entro 2 secondi mi chiederà dov'è il cibo con cui vuole riempirsi lo stomaco. Tic tac fa l'orologio della cucina. Dov'è il latte? Ecco, appunto, come volevasi dimostrare. Mentre sto riponendo i piatti mi giro e lo osservo. È impalato davanti al frigorifero aperto e guarda dritto davanti a sé, vale a dire che sta fissando il ripiano più alto, dove il latte non è mai stato né mai ci sarà. È ovvio che un brick aperto non possa stare in piedi in un ripiano alto 15 centimetri. Non gli rispondo, ma lui, imbambolato e attratto come una falena dalla luce del frigo, ripete meccanicamente: «Dov'è il latte?» Non gliela do vinta. Anche se so perfettamente dov'è il latte e posso addirittura intuire dove si trovi quello dei vicini, perché diciamocelo, dove volete che sia se non sulla mensolina dello sportello? Voglio togliergli quel brutto vizio di chiedere ancora prima di cercare. Mi accusano molti ascoltatori su Facebook soprattutto di fare un elenco di luoghi comuni contro gli uomini, ma sono cose che anche a me fanno un po', suscitano perplessità, perché mi sembrano lontane dall'esperienza quotidiana. Ma che esistano uomini così è immancabile, è vero, sono eterni fanciulloni. Poi fuori sono anche implacabili dirigenti d'azienda, sono ottimi venditori, fantastici professionisti, ma in casa, ahimè, l'onda lunga delle mancanza di responsabilità che hanno avuto in famiglia si ripercuote anche nella vita coniugale. Abbiamo finalmente tante donne. Stiamo parlando del libro di Marica Facci, edizione Liberti, Le cazzate che dice mio marito, una sorta di diario quotidiano di una segretaria d'azienda che a un certo punto, stanca di averci a che fare tutti i giorni con queste lancinanti e massacranti inadeguatezze, ha deciso di metterle in un diario. Sentiamo qualche ascoltatrice, poi parleremo con Marica Facci. Tiziana, ecco le donne. Buongiorno. Io ho telefonato per dire che quel diario lì lo possono aver scritto, penso, la maggior parte delle donne italiane. Ecco, no, perché sennò sembra che noi parliamo della luna. No, parliamo del purtroppo. Faccio un esempio, della realtà. L'esempio che più le dà dolore. Le faccio un esempio. Io secondo me addirittura iniziano da bambini, le dirò di più. Sono andata al mare con 6 bambini, 4 maschi e 2 femmine della stessa età. Le 2 femmine la mattina, quando gli dicevi preparatevi, si va in spiaggia, dopo 10 minuti erano pronte. I maschi venivano in spiaggia, se non insistevo, in pigiama. Io sono al terzo compagno non cambiati tre. Ecco, non serve cambiare. Mi parli non dei bambini degli altri, mi parli degli uomini suoi. Degli uomini, sì. Le cose che più le davano fastidio, per cui le ha mandati via, i due sono stati scaricati e il terzo è lì per essere scaricato. Ma è sul filo del rasoio, si capisce? È sul filo del rasoio, sì. Perché non lo sta per mollare, certo. Più, non se ne... è così. Ma mi dica un esempio, cos'è questa mattina, qual è stata la prima cosa? Questa mattina qual è stata la prima cosa, se lo dico... I calzini. Sono i calzini? Dove li metto da 7 anni, ho risposto. Ma non li trova quelli sporchi o quelli nuovi da mettersi freschi? Quelli nuovi. Beh, sarà il cassetto dei calzini come dentro in tutte le case. Dentro al cassetto suo, dei calzini. E quindi? Sui calzini si rischia di mettere... Che dire? E metti i calzini, è tutto così. Adesso è anche estate. Come dice la signora, i calzini, il latte, tutto. Ma lei sarebbe disposta a fare una follia per un uomo che si veste da solo, si ordina da solo i cassetti, è capace di cucinare, non le chiede nulla, anzi, è lui pronto a fare ogni cosa? Ne ho conosciuto uno solo nella vita e non era italiano ed era già accompagnato. Uno ne ho conosciuto. Ma se ne conoscesse uno italiano sarebbe disposto a una follia? Ma deve essere autosufficiente in tutto. Totalmente, faccio un esempio. Totalmente. Sì. Lascia anche il bagno pulitissimo, anzi, cambia l'asciugamano. Non esiste. Ma sono cose banalissime. Ma andiamo avanti, Carla. Sì, Carla. Sì. Io no, la stessa da cosa. Una parte no. Da una parte ho la conferma che quello che vivo quotidianamente lo vivono il 99% delle donne, il 90% così. Però quello che volevo dire è che io mi sono 33 anni più di 33 anni che sono sposata, sempre con lo stesso marito, abbiamo due figli. Voglio dire, la cosa che voglio dire è che al di là di tutte queste, alla fine, stupidaggini, sì, che però mi fanno arrabbiare tantissimo, a certi giorni proprio sono furente, così, mio marito è per me è la persona... cioè con cui veramente sto benissimo, cioè da un punto di vista culturale, di interessi li abbiamo in comune, insomma noi siamo veramente le due mezze mele, ecco, abbiamo litigato, abbiamo avuto le nostre crisi, però voglio dire, lui al di là di quello, lui me lo dice, guarda, io ho questo problema, e ce la mette tutta. Cioè senza quel bel imbranatone in casa lei non si sentirebbe realizzata. Ma quindi... non è, sì, ma imbranatone voglio dire, però sono stupidaggini alla fine, perché cioè se noi abbiamo gli interessi insieme, ci piace, ieri siamo andati ai Navigli, al mercatino, cioè voglio dire, a noi abbiamo tutto in comune, infatti ieri poi tornando veramente ogni tanto ce lo diciamo, perché gli anni avanzano e diciamo, mio marito soprattutto dice, ma poi perché poi avevo un dolore forte ieri al collo, insomma mi ero un po' spaventata, e lui dice, certo che se dovesse succedere qualcosa che resto da solo, io sono finito, muoio subito. E poi io gli ho detto, guarda, anch'io, perché io da sola non so più dove mettere le mani, signora, nel senso, per applaudire a questa integerrima vita coniugale, vi auguro... Ma è vero, sì, così. Ma avete un futuro da un marello, guardi, mio marito è quello che non sa più neanche le camicie, io gli dico, ma hai perso la memoria. Allora leggo un capitolo del libro di Marica Facci, che lei mi commenterà, anzi, Marica Facci introduce la signora al capitolo perché una volta non cucina nuda, cioè questo avanzo di asilo fa anche domande del genere, richieste del genere. Cosa significa perché una volta non cucini nuda? Ma sì, ci sono queste fantasie erotiche che i mariti vorrebbero soddisfare. Cioè, ti vorrebbero nuda a friggere le polpette? Evidentemente, questa mancanza di così visione realistica un uomo della del genere vita, ha pochissime fantasie domestica. Erotiche. Evidentemente concorda, da signora, qualche parte forse concorda con l'autrice su questo lato che non abbiamo toccato, ma bisogna pure in qualche maniera sviscerare. Sì, certo. Zero fantasia. Beh, magari no, però chiaramente ci poca. Eravamo giovani, insomma. Quando eravate giovani, che vuol dire? Perché un giorno ci si alza la mattina ma e dice... No, vabbè, ma perché? Perché gli interessi cambiano, voglio dire. Mica è vero, guardi, questo glielo fa credere lui. Ci sono persone che gli interessi rimangono gli stessi fino all'ultimo giorno di vita. Sì, vabbè, noi non siamo fatti così. Questo dire, sarà capito, ecco. Però va bene, ognuno coltiva la gamma di interessi che reputa più proficui per rimanere assieme, va benissimo. Maria Luisa. Buongiorno, Io quest'anno ho festeggiato i 40 anni di matrimonio. Quindi? Quindi felicissima. Mio marito è la persona che stimo in assoluto più di tutti quanti. Anche la moglie di Fantozzi, sempre Pierugo, ti stimo tantissimo. Questo non è sintomo di felicità. Non sono assolutamente la moglie di Fantozzi. La moglie di Fantozzi, Pierugo, ti stimo tantissimo. La mia vita coniugale non è stata fatta di routine noiosa. Ma questo non l'avevo domandato. Alla signora voglio dire una cosa. Sul discorso dei calzini ha due alternative che ritengo abbastanza valide. O li tira su tutti i giorni e non dice niente, non scrive neanche contro le calzate di suo marito, oppure lascia che si crei la montagnetta dei calzini sporchi finché il marito è costretto a mettersi quelli sporchi. Però io dico che quando uno si accorge dopo non so quanti anni di matrimonio di queste cose, forse un minimo di terapia di coppia. 5 anni. Ecco, è un po' poco per me. Comunque. Marca Facci, la signora le consiglia terapia di coppia perché lei sui calzini non è abbastanza decisa. Ma io sui calzini le ho provate tutte. E alla fine la soluzione è stata proprio quella di metterli via io. Mi sono rassegnata ed è una cosa che faccio appunto per il quieto vivere e non ci penso più. Però perché poi va sempre mi sono voluta sfogare. Pantaloni, camicie, mutande, quelli invece sono a postissimo. Perché tutto no, in effetti anche il resto viene lasciato in giro, però i calzini creano questo problema. Hanno una presenza, cioè, hanno una presenza più. Poi si spaiano. Perché se vengono lasciati a terra, poi uno finisce sotto al letto, l'altro vaga per la casa. Non avrei mai immaginato questo ruolo centrale dei calzini nella vita coniugale, veramente, non avrei mai centrato. No, sono importanti. Fernanda. Dunque, io ho 75 anni, sono sposata da 52. Quindi lei è ancora della generazione che gli uomini portavano le giarrettiere? Sì. Sì? Allora. Suo marito ha portato le giarrettiere? No, mio padre no, le portava no, mai. È sempre stato abbastanza sobrio, diciamo anche moderno per i suoi tempi. Ma io le ho mancate per 5-6 anni, mica più, perché mio padre le portava. Per esempio, porta il farfallino, la cravatta non sa farsi il nodo. Il farfallino si fa il nastro senza neanche guardarsi allo specchio. Che è molto difficile, l'ho portato io per anni. È difficilissimo. E lui è bravissimo. Comunque è un pulcione mai visto. Pulcione nel senso che ha le pulci? No, disordinato. Ah, disordinato. Non vuole apprendere niente, è refrattario tutto. L'altro giorno mi dice, la lavatrice è ferma. E dico, vabbè, spegnila e apri lo blò. Dopo un po' arriva e dice, ho toccato tutto ma non si apre. Morale non si è più aperta, ho dovuto chiamare l'idraulico. Per dire, no? Non sa farsi un nuovo tegamino. La proposta che gli ho fatto... Quindi lei non può lasciarlo solo mezza giornata, muore di fame. Lui va dal desco alla poltrona, dalla poltrona al desco. Beh, con questi, non so, esseri qua, ci dividete una vita piacevolmente? Sì, è molto divertente. Però Me l'immagino, certo. Dottore. Ma divertente in che senso? Per farci cosa? Perché io devo provvedere a tutto. Ah, lei ha questa sorta di desiderio di occuparsi di qualcuno. Come una trottola, no? Sempre pronta. Ah, beh, ognuno, vede, dà senso alla sua vita. Andare a fare le cose per lui, compagnia bella, a 75 anni sono un po' stufa. Allora gli ho fatto una cosa. Per renderlo più divertente potrebbe azzopparlo a martellate, così è ancora più inefficiente. Perché mi sembra scusi il paradosso, ma mi sembra strano, trovi divertente un uomo che si sposta dalla tavola alla poltrona e no, dice che... No, ne pensano due che mi tiene su... Ah beh, lei è la sua palestra, invece di andare in palestra si occupa di suo marito. Vabbè, in bocca al lupo. Vedrà che il tempo le darà fortuna e soddisfazione. Più suo marito sarà inefficiente, più lei avrà modo di mostrare la sua efficienza. Quando si è connu, quando si è reconnu, perché se perde vue, se reperde de vue, quando si è retrouvé, quando si è réchauffé, perché se separé? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des... Naturalmente erano le informazioni del traffico e ho sbagliato, dando per la seconda volta le informazioni della borsa, ma presto non avrò più modo di sbagliare. 800 24 00 24, stiamo mettendo in croce i poveri mariti, ma è giusto che sia così, perché l'uomo farlocco che pone il calzino al centro della propria dell'attenzione coniugale vuol dire che non ha altro da ostentare, altro da mostrare, altro da spostare, altro con cui occupare lo spazio visivo, tattile, olfattivo della propria consorte. Quindi lei, poverina, si concentra sul calzino, non avendo altro, su quel calzino moscio abbandonato per terra, è incentrata alla chiave del libro, le cazzate che dice mio marito, scritto da Marika Facci, che è un nome finto naturalmente, che non può rivelare la sua natura di dirigente d'azienda, lavora in una grande azienda di prodotti meccanici, e ha deciso di vendicarsi raccontando giorno per giorno le terrificanti vicende di suo marito. Marika, al di là dei calzini che hanno fatto da padroni in questa trasmissione, mi dai un altro spunto di riflessione sui punti deboli di tuo marito? Le cose che si possono dire alla radio. Ma sì, una cosa che forse molte, in cui molte si riconosceranno, è il fatto che gli uomini tendono a voler risolvere i problemi. Quindi quando noi torniamo a casa stanche, innervosite dal lavoro e ci sfoghiamo, loro ci danno la soluzione ai nostri problemi. Esempio. Cioè pretendono di... Ma nel libro io riporto un problema che ho avuto con una collega nuova, così, che mi infastidiva per la sua presenza, e mio marito si ostinava a dirmi: ma prova a dirle, non so, di non mettersi i tacchi, prova a essere così, prova... Cioè, che consiglio cretino, scusa, devi dire a una tua collega... No, nel senso, perché a me dava fastidio. E se li mette apposta per farti rudere, per portarti via spazio vitale, promettendo intime d'azione ai vostri dirigenti, è chiaro che non gli puoi dire togliti i tacchi. Esatto, e poi in quel momento io volevo solo sfogarmi, e questo succede spesso, comunque noi donne tendiamo con le parole a tirare fuori tutto quello che abbiamo dentro, e mentre gli uomini non capiscono questa nostra esigenza, dovrebbero semplicemente ascoltare e assecondarci, e invece si ergono. Ma ci sono poi delle tecniche, a giudici, o comunque ci sono delle tecniche stupende, uno fa sempre sì con la testa, ogni tanto dà una carezza, ogni tanto sorride, e può pensare ai fatti suoi tranquillamente, sì, lasciare parlare la... questo. Ma sì, sì, semplicissimo, sì. Basta allenarsi. Michele. Sì. Eccoci qua. Sì, salve. Senta, ho ascoltato un po' di interventi. Spezzo una lancia a favore delle donne, ma un mucchio di lancia a favore non degli uomini, perché non mi va di generalizzare, ma non si può. Ma c'è sempre, come posso dire, dei fraintendimenti. Faccio un esempio: il latte nel frigo, ma anche gli oggetti che non si trovano. Le donne non danno mai un posto alle cose, perché la casa è oggetto del loro territorio. Vabbè, ma sono donne per questo, cioè ci piacciono. Appunto, per questo. E ma sennò, soprattutto... E se no mi sposavo cosa? Un ragioniere, scusi. Ho capito, ma allora, quando uno dice dove hai messo questa cosa, non lo dice perché non ha voglia, perché se ci si mettesse d'accordo che il latte va messo in quel posto lì, nel frigorifero, io sono certo che il marito non va a chiederglielo, sa, apre il frigorifero e trova lì il latte. In realtà quel latte va a finire in tutto il frigo, alla fine diventa una caccia al tesoro. Ma a parte i pedalini, che uno dice è un classico, ma il vizio di lasciare i pedalini o altre cose in giro è il loro modo di assecondare, come posso dire, l'affetto del proprio uomo. All'inizio della relazione hanno questo atteggiamento ipermammone, ipermaterno. Ha sentito la signora di 70 anni che è ancora felice che il marito sia una, certo, sorta di Bradipo che va dalla cucina alla poltrona, e spera quasi che aumenti il livello di difficoltà del marito per essere lei ben in allenamento. Sono queste donne che sognano di averci un allettato. Il loro sogno finale sarebbe, appunto, come Misery non deve morire, averci un allettato, esatto, a cui devono cambiare il pannolone, lavarlo, esatto, con la spugnetta, pulire le piaghe da decubito. Quello sarebbe il sogno. L'uomo in belle ridotto a qualcosa di totalmente subalterno, e loro che si sentono glorificate da questa santità di grandi infermiere. Coraggio, Dania, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, io sono separata, ma ricordo ancora le cose che mi facevano dare di matto. Entrava in bagno per farsi la doccia vestito, e quando aveva finito arrivava la richiesta rituale: mi porti le ciabatte? Beh, non era contento, lo vedeva così fresco e svettante come un dio greco, ancora gocciolante d'acqua, era una grande occasione. No. Poi, perché faceva schifo fisicamente? No, vabbè. E allora non, perché quando non c'era un momento di felicità. Perché non si organizzava le ciabatte, si portava. Ma è un gioco d'amore, si fa apposta, portami le ciabatte, e lo coglieva nel momento di massima gloria e fulgore maschile, chiaro. No, perché quando non sapeva che ciò mi faceva arrabbiare, no, non vedo tanto. Ma perché non vedeva il lato positivo di questo fatto, la chiamasse sotto la doccia? No, aveva già finito. Cioè, ma dico, va bene, se fosse una cosa che mi faceva eccitare, d'accordo, ma invece tutt'altro, mi ci arrabbiavo, quindi dopo due volte organizzati e portati le ciabatte in bagno. Vabbè, già le ciabatte in sé sono un accessorio che un uomo dovrebbe evitare di possedere, secondo me. Però va bene. I cotton fioc usati. Che schifo, no, non è possibile, siamo vicino all'ora di colazione. Cotton fioc, lasciare cotton fioc giallini in giro. Sì, poi i panni sporchi non dentro il cestone, ma accanto, il mucchiettino in terra accanto al cestone. Beh, così vede bene lo stato di conservazione delle mutande. Poi sì. Poi i calzini né in fondo al letto né nel cestone della biancheria, ma diventavano una pallina dentro le scarpe. Dentro le scarpe ci metteva. E lei perché li andava a cercare lì? Lasciava lì? No, io non le andavo a cercare, va bene. Poi li toglieva quando rivoleva quelle scarpe lì. Se le infilava, trovava di una taglia più piccola, la misura più piccola, si accorgeva che qualcosa non andava. Poi. Quindi portava calzini cortissimi, immagino. Se andavano tutti appallottati nella scarpa, erano praticamente dei fantasmini. Sì, forse. Quindi un uomo scalcagnato anche in quello. Poi? Ciliegina sulla torta, il taglio delle unghie dei piedi. Che schifo. Ma guarda, una cosa. È una fogna umana. E lasciava le unghie dove? Sì, era in terra, va bene, quando poi aspiravo, ma insomma. Trovava sempre quella sorta di mucchietto di unghie. Poi? Infatti, e poi basta. Cioè, queste. Che altro c'è? Peggio di così. Quindi, Marga Facci, la sigla ci porta via. Ha trovato qualcuno che la supera a destra, sola. In effetti. Sì. Questa delle unghie tagliate non c'è nel suo libro. No, l'ho evitato. Però è un problema. Però sì, è un problema che affligge. Esistono delle fantastiche limette che impedirebbero questa cosa, però sì. Meglio farlo una volta al mese con la cesoia che tutti i giorni con la limetta che richiede tempo. Grazie, quart'ultima puntata domani, ci sentiamo, grazie Alessandro Chiappini, grazie Fabrizio Intonti, grazie a Marica Facci che con coraggio ci ha esposto le cazzate grazie di suo marito. A voi. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.